Hadis numero 22. Abu Abdallah Jabir bin Abdallah al-Ansari, che Allah si compiaccia di ambedue, raccontò che un uomo chiese all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: secondo te, se compio soltanto i riti d'adorazione prescritti, eseguo il digiuno nel mese di Ramadan, permetto la cosa lecita e proibisco la cosa illecita, senza aggiungere a questo alcunché, entrerò in paradiso? Disse sì. L'ha riferito l'imam Muslim.